Dopo essermi preso nel mondo, l'ho venduto a se stesso, lasciato perso, un mondo venduto, ho venduto a se stesso, oggi ho venduto il mondo, quindi sono un re lo stesso. Se lavoro e non vale il sudore speso, se sogno il sistema ipocrita mi voleva solo come uno schiavo e non come un re, ora che ce l'ho fatta metto ora me nuovo, me stesso entro una traccia, dentro un dipinto, ora che ho vinto e non devo nulla a nessuno, volo in solitaria, volo senza ora d'aria. Lavoro uguale schiavo muerto, è muerto il re non fece impero, ora che di anni ne ho 40, sotto sclero, ora che vivo in volo, ora che altri indietro trascinano, metto ali dove speranza non guarda, in quelli che partono da zero, e in anni cognano un sogno per davvero, ora che nessuno crede nei sogni, beh faccio l'ho fatta davvero, nessuno credeva in me, beh ora è vero, troppo tardi per chi in 30 anni non ci ha messo passione, e talento e lavoro, e passò 30 anni in un bar a chiederselo, oggi sono io il re del mio vero. Oggi sono io il re del mio vero.